It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli l'aria è ammorbata da pesanti miasmi, K e Drago si sentono pervasi da un senso di pace e di benessere. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Drago, che soddisfazione, queste uova fritte, è proprio vero. Una soddisfazione. È vero, vero, anche se ormai sarà la 600ª volta che mangio uova fritte ultimamente, devo dire che stanotte mi danno una soddisfazione particolare. Caro mio, è tutto merito di quel santuomo dell'amministratore delegato. È vero. E del suo New Age Management. Vedi, puntata numero 33. Dici che è solo per quello? Per il New Age Management? Che poi consiste nello stare calmi davanti agli altri e poi spaccare tutto quando si è soli. Ma senza dubbio, Drago, senza dubbio. Con l'azione combinata della chimica, cioè la paroxetina, e della pseudo-religione, cioè la New Age, sì, l'effetto è assicurato. Diventi attutito e tutto va per il meglio. Attutito. Attutire, ottundere, schermare. Questi, Drago, sono i verbi della psicologia del futuro. L'uomo, o il pollo, a seconda dei casi, non deve mai entrare a contatto con la realtà. No, mai, vero. È lì che si frega. Vero, la realtà vero. È troppo dura per lui. È come, non so, come l'atmosfera ostile di un pianeta alieno. E allora cosa bisogna fare? Bisogna... Attutire. Attutire. Attutito. Sì, però attutito. Però una sottiletta qui da far sciogliere sulle uova. Non riusciamo a trovarla. Ma quale sottiletta? Drago, ti nutri solo a sottilette. Ma no, non è vero. Ma poi i polli producono uova, non sottilette. Vabbè, ma è per cambiare un po', no? Se non vogliamo metterci a mangiare cosci di pollo, dobbiamo continuare con le uova. Beh, abituati. Forse, sì, forse non conviene mangiare cosce di pollo per non inimicarsi tutti. Poi cosa fai? Col pollo con cui parli 5 minuti dopo gli strappi le zampe. Non può succedere, no. Ma in verità ti dico che queste uova sono buonissime, no? E che io sono felice, in fondo sono felice. Felice. Felice come un gatto castrato. Chickens eat crap. E niente, io a un certo momento ho capito che ci voleva dell'altro per la mia felicità, che il denaro, la seconda casa, la terza casa, la quarta casa, la seconda donna, la terza donna, la quarta donna, non mi bastava più. E allora ho cominciato a cercare, a chiedermi che cosa c'era che non andava. Avevo tutto. Avevo il denaro, avevo il prestigio, avevo le macchine, avevo le donne, avevo il potere. Ma non ero contento. E un giorno, mentre passeggiavo con le mani in tasca, mi sono accorto che automaticamente le tiravo fuori dalle tasche, mi cadevano dalle dita le banconote, ma le mie mani si congiungevano insieme sul mio petto e davanti a me arrivava un omino, piccolino, senza capelli, vestito con una tunica, che mi fissava con lo sguardo. E allora io sono andato verso di lui, senza volerlo, e ci siamo baciati. E lui è diventato da quel giorno il mio guru. Io vado da lui tutte le sere quando esco dall'azienda, Lui mi fa trovare delle bevande, mi fa trovare delle robe da masticare. Come dove? In una casa, nella sua casa, nella casa dell'omino, senza capelli. Io salgo con l'ascensore, esco dall'ascensore, torno nell'ascensore, che normalmente ho sbagliato piano, vado al piano giusto, busso sulla porta, la porta si apre da sola, non ho mai capito come sia possibile questo. Io entro, la porta si richiude sempre da sola, e a un certo punto seguo una luce e arrivo in una stanza, mi siedo e lì accade tutto. E quando esco di lì io sono felice, sono un'altra persona. Ecco, secondo me questa storia dell'amministratore delegato, l'omino calvo, eccetera, è un po' come la canzone Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, sai qual è, no? Ma certo, Drago, tutti conoscono Mr. Tambourine Man, come no? Anche se nessuno l'ha mai ascoltata intera, visto che dura 6 minuti ed è tutto uguale con gli stessi accordi. Esatto, così. Però secondo me l'omino calvo dell'amministratore delegato è esattamente come il Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, e cioè lo spacciatore di droga. Cosa? Lo spacciatore di droga. Ma sì, dai, K, la metafora è scoperta. Basta leggerla, è lì davanti a te. Come dice la canzone di Dylan? Di chi? Di Dylan o di Dylan? Dylan. Dylan. Dammi tu la. La, è un fa. Take me on a trip and put your magic swirling shape. Fammi fare un trip sulla tua nave magica e ondeggiante. Ho i sensi denudati, le mani senza presa, i piedi intorpiditi. Aspettano solo i tacchi degli stivali per partire. Sono pronto ad andare ovunque. Sono pronto a svanire nella mia parata. La tua danza incanta il mio cammino e prometto di seguirla fino in fondo. Hai capito, K? Come Dylan raccontava a tutti di essere un drogato perso sotto forma di una canzone sognante all'apparenza hippie e innocua, così il nostro amministratore delegato ci dice di essere un drogato perso sotto forma di una parabola tipo quelle degli evangelisti americani, quelli che vogliono convertirti al Gesù al neon della loro scrivania di Mogano. È chiaro? Nei sotterranei della fabbrica di polli, sotto la superficie di serenità irradiata dall'omino senza capelli, si cela un segreto spaventoso. Il segreto di... La gabbia di Faraday. Signor Faraday! Signor Faraday! Si calmi, signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Che cosa succederà adesso? L'omino calvo è davvero uno spacciatore di droga? E se lo è, la sua roba sarà più o meno cara rispetto alla media del mercato nero? Per scoprirlo, sintonizzatevi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo tossicomaniaco allestimento di... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce, quasi mai. This time is on the air, every night it's the same. good night, ladies and gentlemen, good night. Bar Lumen.